piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Si tua cittadinanza. Dici prima gli italiani. Checco Zalone supera se stesso e sbanca il box office. Nel primo giorno in sala, Tolo Tolo, film prodotto dalla Tau 2 e distribuito da Medusa, sfiora gli 8,7 milioni di euro, mettendo a segno un incasso record, il più ricco di sempre nella storia del cinema italiano, nelle prime 24 ore di programmazione. Numeri che confermano il grande successo dell'attore pugliese, qui alla sua prima prova da regista. Sa sognare, l'italiano sa sognare. Oltre 1 milione di spettatori hanno festeggiato al cinema l'arrivo del nuovo anno in compagnia di Zalone, che ha battuto anche il suo precedente record di Quo Vado, quando nel primo giorno di programmazione del 2016 totalizzò 7,3 milioni. Il tema attualissimo dei migranti, l'italiano medio e le sue paure esorcizzate in chiave ironica. Per Pietro Valsecchi una scommessa vinta. Un grande giorno perché è nato un nuovo regista, è nato Luca Medici, è nato Checco Zalone. Un risultato storico per il cinema italiano, si può dire che Checco Zalone batte se stesso. Volevo ringraziare Mediaset e tutti i collaboratori, tutti quelli che hanno aiutato la Tau 2 a realizzare questo film difficile e faticoso. Finalmente voi ci avete premiato. Siccome anche io faccio parte di quel 1.175.000 italiani che sono andati a vedere Checco Zalone, l'ho visto ieri sera in un cinema romano, in cui la gente non aveva capito una mazza, ha portato i bambini con le carrozzine, mamma, papà, piangevano, strillavano, tutte le carrozzine parcheggiate sotto lo schermo. I romani sono così, ci vuole la figliolanza dietro. Le signore erano un po' scocciate, si alzavano, la gente era andata lì per ridere. La maggior parte della gente accanto a me c'aveva lo smartphone acceso, non so se per prendere il film e portarlo a casa o continuare a chattare. Anch'io sto guardando il film di Checco Zalone. Beh, siccome immagino che fra questo 1.000.000 e passa di italiani ci sarà qualcuno che mi ascolta in questo momento, vorrei parlarne con le persone che l'hanno visto. Perché chi non l'ha visto può parlare soltanto di quello che ha letto o quello che legge oggi su tutti i giornali. C'è una pagina intera dedicata al record Checco Zalone. Sì, perché nella storia del cinema italiano mai un film in 24 ore incassa 8 milioni di euro. Quindi è una cifra ragguardevole. Quindi comunque il film è andato bene, comunque il film ha fatto gol, comunque il film ha spaccato, potete dire quello che volete. Poi ci sono i commenti preventivi e i commenti postumi. Quelli preventivi di tutte le anime belle che hanno visto il trailer trappola che ha fatto Checco Zalone, divertentissimo, quello che ha, diciamo, può essere la videoclip della canzone Immigrato, in cui si vede un italiano cattivo che si scoccia al semaforo quando gli puliscono il vetro, che non vuol dare lo spicciolino all'immigrato che gli porta la borsa della spesa, che in fondo pian piano cede, poi alla fine l'immigrato se lo trova a casa con la moglie assatanata, che finiscono tutti e tre a letto e naturalmente l'immigrato, oltre a avergli portato via i soldi, avergli portato via la casa, gli tromba anche la moglie, che diciamo è la concretizzazione del sogno non detto di ogni italiano, che dice prima gli italiani, questa è la vera grande paura. Alla radice di ogni razzismo c'è sempre un senso di inferiorità, in particolare alla radice del razzismo verso gli immigrati che vengono dall'Africa esiste un profondo e radicale senso di inferiorità degli italiani nei confronti delle persone che vengono da paesi lontani con caratteristiche morfologiche che noi ci sentiamo di invidiare. Ecco, l'ho detto così, lo dice anche Zalone nel suo film, ride all'inizio, cioè Zalone fa la doccia in un villaggetto africano assieme al suo amico africano e tutti i bambini ridono, guardano, lo indicano e lui dice: ma che voglio farci, sono nella media europea, vedeste mio cugino che è ancora meno. Ecco, abbiamo detto anche questa banalità. Poi riflettiamo sul fatto, allora, che Checco Zalone sempre ha fatto ottimi film, è un gran paraculo, fa bellissimi film, ma li fa sotto Natale quando l'alternativa è ben poco, chi è intellettuale va a vedere il film di Ospetek sulla coppia gay che adotta la bambina, chi non è intellettuale, boh, non ci sono cialtronate degne di quel nome da poter vedere in questo periodo, boh, cinepanettone non mi pare ce ne siano tanti, quindi va a vedere Checco Zalone. Checco Zalone riempie, l'alternativa al post Cappone, post Cotechino, più consistente, più condivisa. Quindi sa vedere perché c'è lui, perché negli altri film si è riso tantissimo, ci si è divertiti tantissimo e ci si vuole divertire anche questo. È un film divertente, ma non è proprio esattamente il film in cui uno va per scompisciarsi di risate, perché è un film che tocca un argomento che naturalmente divide il nostro paese, che è l'immigrazione. Sull'immigrazione, sulla paura dell'immigrazione, sulla gestione scellerata, ipocrita e buonista, fra parentesi, dell'immigrazione, sulla versione scellerata, ottusa, ignorante dell'immigrazione, si è giocata tutta la politica degli ultimi mesi nel nostro paese. Adesso se ne parla meno, perché i temi sono altri, improvvisamente non se ne parla più, ma continuano a sbarcare le persone, continuano a affogare le persone, continuano a essere sfruttate le persone, continua a essere non risolto il problema. Però Zalone nel suo film mette tutto questo, tutto, esattamente tutto. Al di là del trailer che ha fatto arrabbiare le anime belle, questo è un film che lo vanno a vedere le persone pensando finalmente gliela canta questi buonisti. Si vede uno che fa un film dove si capisce quanto sono approfittatori neri che vengono qui, vogliono 35 euro al giorno, il wifi e poi attentano anche alla virtù delle nostre integerrime donne. E rimane male perché è un film che è un film molto di sinistra, diciamo la verità. Questo è. Ma si vede lo zampino di Virzì che ha lavorato. Pensate, ho visto il film assieme alla Bruni Tedeschi, cioè lei manco lo sa, era tutta camuffata, l'ho vista, era lì, era andata a vedere perché è un film dei nostri, è chiaro, dei nostri, inteso di loro, capito? Che è un film che naturalmente ha una visione dell'immigrato totalmente ottimistica. Non c'è un immigrato che sia anche semplicemente un pochino appena lambito un pochino il testa di cazzismo, no, niente, sono tutti fantastici, meravigliosi. Zalone è un chiamate l'800240024, io parlo finché non chiama qualcuno, poi mi intrattengo volentieri con qualcuno delle persone che l'ha visto, dico il mio punto di vista, posso anche raccontarlo fino alle ore di chiusura di questa trasmissione, chiaramente, però voi, se voi chiamate, magari mi date una mano e faccio anche ascoltare qualcosina, ma vi aiuta a stimolare la memoria di chi l'ha visto. Da 10 anni mi tormenta, inevitabile, ingombrante. Il suo personaggio tipo è un provinciale parzialmente consapevole della sua condizione, che si confronta con quello che c'è fuori, uscendone cambiato in modo piuttosto realistico, cioè non rinnegandosi ideologicamente alla radice, ma adattandosi in nome di una semplice umanità. Cado dalle nubi, che bella giornata, sole a catinelle, Quo vado, tolo tolo, in tutti i film è costretto, appunto, a confrontarsi con il diverso da sé, un po' per necessità, un po' per curiosità, con la stessa forza centrifuga di cui parlavo prima, quella che può trovare... Vabbè, questo si chiama Domenico Misciagna, è un canale YouTube dove racconta i film, a lui non è piaciuto Zalone, è critico, perché il critico deve essere critico, ma sono sempre fatto molto ridere, molto, anche questo film, faccio le belle risate, vieni con la mia impressione. La prima metà del film ho detto: ah, che bello, è un film da far vedere nelle scuole, perché racconta come se fosse una favola, un racconto, come quei film delle principesse Disney, quello che è, diciamo, quello che c'è dietro il backstage degli immigrati che poi vediamo con la mano buongiorno signore davanti ai supermercati. Però dopo ci sono state alcune cose che è la mia estetica, non mi piace le irruzioni da musical, non mi piace il cartone animato nel film, però sono io che ho questo limite, probabilmente in una narrazione pop ci sta bene. Oh, ecco la prima ascoltatrice, Laura, buongiorno. Laura. Buongiorno. L'ha visto lei e cosa ne pensa? Io l'ho visto e non mi è piaciuto. Vediamo di capire perché. Ecco appunto, dunque, voglio fare una premessa. Dunque, io sono di Livorno, quindi di sinistra, con una mamma che ha lavorato a Camp Derby subito dopo guerra e che mi ha sempre detto: Laura, quando è un'ora che stai con una persona di colore, dopo non ti rendi più conto che è di colore. Per cui in casa mia certe cose sì, non ci sono. Per me sono come noi, non faccio differenza. Soprattutto al buio non si vede più. Certo, bimbo ridi perché se no così gli si vede i denti. Per dire, no, al di là di questo pensavo di far due risate. Il primo tempo è andato giù piatto, come ha detto lei, quasi un documentario, belle immagini, tutto quanto. L'argomento è scottante. divide, non c'è niente da fare. Però secondo me qui ha messo, o io capisco nulla, ha messo i difetti sia dei bianchi che dei neri, perché secondo me è così. Sono esseri umani, ci hanno anche loro sì, difetti. No, a confronto noi e loro, e non ha rispettato nessuno, nel senso che non ha rispettato i neri, non ha rispettato i bianchi. Questo è un furbino che scappa. Vediamo perché no, perché è interessante quello che dice lei. Dopo aver fatto buca, perché si credeva di fare chissà cosa nelle Murge, e poi quando poi ha l'amico nero che è bravo, intelligente, acculturato, però l'animo nero quando arrivano in Libia li vende, e quindi zero anche ai neri. Sì, ha ragione. Adesso non vogliamo fare gli spoiler del film. Diciamo che il coprotagonista è l'antitesi, che Cozzalone è il pugliese medio innamorato dei marchi, vestito Armani, sì, Gucci, Dolce con Gabbana, le cremine. Sì, che è il pugliese voluto, lo dico con affetto, ho amici e amiche pugliesi, capito? Sì. Però diciamo, il pugliese voluto è quello che viene a Roma sotto Pasqua, che quando ci sono i saldi si va per via si compra tutti i marchi. Con i mocassini, sì, penso che le scarpe Tod's le vendano soprattutto per i signori, poi vanno il signore vanno a spaccio per le vie di Lecce, capito? Detto questo, si trova improvvisamente in una contingenza economica in Africa, anche lui immigrato, assieme all'africano invece, che tutti vorrebbero come amico. I familiari lo vogliono morto. Sì, con gli occhiali, come quelli che vendono i libri davanti alle librerie, che mettono gli occhiali finti o fa finta che sono intellettuali. Ecco, che in realtà sa tutto, che si guarda il neorealismo italiano con un televisore alimentato a pedali per capire. È quello che non è Zalone, conosce più la nostra cultura così, che però dimostra, mentre che Cozzalone è un po' parvenu, innamorato dei marchi, superficiale, ma buono di natura, e non mai in un istante mostra delle forme, diciamo, di cattiveria o di crudeltà, se non di ignoranza. L'altro proprio un testa di cazzo, se li vende ai libici tutti. Un altro lato che non ho trovato, lui gioca sempre molto con le parole, no? Lui gioca molto con le parole, queste parole dette a metà e a doppio senso, io non ne ho ascoltate nessuna, perlomeno mi sono sbagliata. L'ironia c'è, io ho riso molto, devo dire, non da morire come gli altri film, però ho sorriso, lui è sempre è impareggiabile, ma si rende conto quello che gira. Guardi che ho visto il trailer di un film di Muccino, cioè, capito? Nel senso che con quello ho visto ancora il film con Boldi e De Sica che non so che appare da qualche parte, nel senso, rispetto a quello che gira e si produce in Italia, ma ne vengano di Checco Zalone, trovo che sia formidabile. Il film è fatto anche girato con grande maestria. Allora, a Laura non è piaciuto, sentiamo Gabriele. Pronto? Gabriele, l'ascolto. Io ho visto il film perché è trascinato dai miei figli e facevo una considerazione. Quanti anni hanno i figli? Hanno 6 anni e 8 anni. E vede che però ha colpito il bersaglio. È un film che vanno a vedere i bambini. Io ho detto, la prima cosa che ho pensato, andrebbe proiettato nelle scuole, non sarebbe male, perché certo va poi integrato con un po' di dati reali e concreti. Le posso dire una cosa, Gabriele, vediamo se è d'accordo, poi la faccio parlare. Questo film sta all'immigrazione come La vita bella sta all'olocausto. Non sono proprio in linea con questa sua considerazione. Secondo me La vita è bella sta all'olocausto, perché dell'olocausto ne abbiamo sentite di ogni. L'immigrazione è un fenomeno contingente, quindi per capire cosa è bello, cosa non è bello, secondo me abbiamo bisogno di immigrazione, di più tecnici che la gestiscono, di meno decisioni prese sull'onda dell'immigrato cattivo piuttosto che del terrorista. Quindi è ancora un po' presto, secondo me, per fare questo paragone. Magari tra 20 anni, se avremo modo di sederci davanti a un caffè, potremmo fare questa considerazione. Secondo me il fenomeno immigrazione a cui siamo sottoposti. Sì, torniamo al film, facciamo l'analisi sull'immigrazione. Torniamo al film. Allora, secondo lei, un regista, un attore comico, un fustigatore rappresentatore degli aspetti paradossali della nostra società, cos'altro avrebbe dovuto fare se tocca questo tema? Ma secondo me in questo momento io non ho le idee ben chiare su cosa poteva fare. Sicuramente è un film che ha avuto un vantaggio pubblicitario, quindi un po' all'atere, fare numeri con pubblicità in prima serata, prima e dopo il telegiornale. No, no, è stato lanciatissimo, assolutamente, quindi, è vero. Sì, quindi sì. Sicuramente è un risultato, se non aspettato, fortemente. Quindi allora Gabriele, vediamo di capire, però lei ha detto una cosa, se questo film diciamo è stato secondo lei così pubblicizzato, vuol dire che il mainstream aveva interesse a pubblicizzare questo film, quindi è un film di governo, è un film di Stato, è un film di establishment, cos'è? Un film che racconta una bella favola per gettare fumo su quella che è la realtà? Ma no, secondo me è un film che dà uno spaccato di realtà, magari fatto da una società di produzione che ha come che è una costola di un'azienda che ha tre reti televisive, quindi molto più pratico, diciamo che chiamerebbe marketing integrato, quindi comunicazione integrata. Io faccio film piuttosto che farmi pubblicizzare da altri canali, visto che sì, però scusi, è un editore televisivo in cui adesso il significato politico è rappresentato da Mario Giordano che dice dove è la nostra minestra di ceci, non mi sembra sia proprio esattamente in linea con questo film. Io sembrerebbe un film abbastanza di sinistra, mi faccia capire. Sì, è abbastanza di sinistra, però diciamo che Mediaset i conti ce li ha in ordine. Per avere i conti in ordine c'è bisogno di Mario Giordano che cerca la minestra, c'è bisogno di Checco Zalone che faccia i film, c'è bisogno della Tao 2 che li produca, quindi è tutto integrato. Senta, ai bambini è piaciuto il film? Sì, ai bambini devo dire che è piaciuto, e secondo me è un film, per come si diceva prima, Adesso la sto sentendo un po' male, Gabriele, comunque è chiaro il suo concetto. Sentiamo Gianni. Buongiorno dottor Nicoletti. L'ascolto. Allora, a me è piaciuto molto il film. Propone il problema dell'immigrazione in modo intelligente, riuscendo anche a far sorridere, descrivendo situazioni tragiche, tutto sommato. Propone anche la soluzione per quanto riguarda l'immigrazione, in quel sogno dove lui immagina la nazionale tutta nera, addirittura il Davide di Michelangelo era diventato nero, no? Un incubo forse per i leghisti, quella è quello che sì, non ho. C'è una parte onirica, i gondolieri sono neri, il sogno anche di avere il grande ristorante con tutto personale africano, perché la donna incinta lavora fino all'ultimo giorno e non chiede la maternità, perché nessuno, se uno si fa male si taglia, non fa nessuna rivendicazione, insomma. Esatto, ci sono tanti spunti. Nella cialtronaggine del protagonista c'è anche un aspetto di speculazione e di sfruttamento, ecco. Non trovo azzardato il paragone che lei ha fatto con La vita è bella, perché ci ho pensato pure io. Sì, infatti. L'unica cosa che mi dispiace è che insomma, l'Africa viene vista, viene considerata solo un posto da cui fuggire. E lì le responsabilità non emergono, chiaramente. Salvo nei villaggi vacanza, dove si sta benissimo. Sì, esatto. E quello, era un film tutto sommato che doveva far ridere, quindi... Però si rende conto, se lui ha riportato alla realtà quello che è un percorso reale, cioè quello che c'è dietro all'immigrato che vediamo per le nostre strade, è esattamente quello. Poi lo racconti poeticamente come se fosse una bella favola, un bel sogno, un racconto per bambini in cui attraversano il deserto ma in fondo nessuno si fa male, in cui ci sono i terroristi ma in cui nessuno si fa male, in cui ci sono gli schifosi soldati che li ricattano e violentano ma nessuno si fa male. Però il percorso è questo. Anche nel momento in cui sembra che tutti debbano affogare, cosa che accade, in realtà come nelle favole, come nei film, alla fine sono felici, sembra che stiano in piscina a ballare. Ci fermiamo un istante, tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento... Figliolo. Ma... Padre! È iniziato l'anno nuovo. Hai pensato al tuo prossimo? Sì, sì, per ben due volte. In poltrone sofà con i doppi saldi e doppi risparmi, 50% di sconto più fino un ulteriore 40% su tutta la collezione. E si può pagare in 48 mesi, senza interessi. Divino. Divano, con rispetto. Poltrone sofà, autentica qualità. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i negozi, salvo approvazione delle finanziarie. Per valorizzare un buon piatto scegli il vino giusto. Per valorizzare la tua casa scegli l'arredo migliore. Per valorizzare i tuoi risparmi scegli che banca. Conto deposito 1% annuo lordo sulla nuova liquidità vincolata a 6 mesi. Offerta valida per vincoli effettuati entro il 29 febbraio 2020. Con il supporto dei nostri consulenti trova le soluzioni di risparmio e investimento adatti ai tuoi obiettivi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non costituisce una sollecitazione né una raccomandazione di investimento. Fogli e documenti informativi su chebanca.it. Che banca. Gruppo Mediobanca. Melog. Per esempio la scena, la sequenza iniziale della questa guerriglia, e io che non vengo minimamente insomma toccato da quello che mi succede intorno, diciamo che è venuta lì, perché ho provato a girare io spaventato, che succede là poi non funzionava, e lì ho colto, diciamo, l'occasione per costruire il personaggio, che secondo me è anche un po' una metafora dei nostri giorni, cioè uno che è incapace di guardare oltre i suoi piccoli contingenti problemi, quindi scoppia una guerra intorno, ma lui c'ha i cazzi suoi, le ex mogli, le tasse. Soprattutto la cremina all'acido ialuronico per il contorno occhi che aveva finito, quindi era disperato e la va cercando nei souk più sordidi. Ma io, rispetto al film di Checco Zalone, ho dato dei giudizi legata alla mia estetica individuale. Mi scrive su Telegram, canale attivissimo, ricordo, Melog ha parlato, ci sono migliaia di persone che ogni giorno discutono anche fuori degli orari della trasmissione, allargano il tema, insomma si intrattengono. Dice: Checco ha superato se stesso, film pungente, volendo poteva essere anche più cattivo, film in cui si mischiano scene da musical e cartoni animati, la scena del nuoto sincronizzato alla Esther Williams, esilarante e grottesca, la canzone della cicogna strabica, una vera perla, ha colpito nel segno. Sì, sono elementi, cambi, fluttuazioni stilistiche che a qualcuno possono piacere, altri magari fa un po', gente come me fa un po' più fatica, diciamo, a rientrare poi in quello che è il mood del film. Il film è un bel film, indubbiamente ben fatto, indubbiamente è molto didattico, indubbiamente non rappresenta in assoluto il punto di vista di tutti. L'onorevole La Russa l'ha visto, ha detto un film troppo buonista, grazie, c'è Zalone quando sta sul barcone con gli immigrati, o sul carro a tre, il carro bestiame che li porta attraverso il deserto, si fa prendere dalla fascistite, diventa il duce, fa italiani, queste cose qua, però è un momento, mi dice che è un buono in tonti non fare gli spoiler, sti cazzi, ne stanno a parlare tutti da due settimane, spoiler, che spoiler faccio. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Ascolto. Allora, io l'ho visto e a differenza degli altri film di Checco Zalone non è piaciuto. Non è piaciuto perché pensavo... Spegni la radio, per favore, Stefano, che c'è un rimbombo, sennò. Pensavo che fosse più divertente nell'ilarità più pura. Invece, opportunamente, in modo opportunistico, Checco Zalone ha voluto sfruttare un trend politico, come dice lei. No, no, film ideologico, non ci piove. Chi nega questo è insincero, è un film fortemente ideologico. Appunto, assolutamente. Mica è un delitto, uno può fare un film. Assolutamente, ma va bene il tema, perché nessuno può essere. Cioè, tutti sono liberi di pensare e di decidere ciò che vuole fare, però fondamentalmente ha sposato un tema in modo opportunistico, a mio punto di vista. Vabbè, dal suo punto di vista, lo faccia la Meloni un film, io sono italiana, sono cristiana, sono Giorgia, e faccio certo. 8 milioni però, di euro in un giorno, poi diremo che bello. Sicuramente sì, questo fa parte dell'onda mediatica, del sistema, il periodo natalizio, che bisogna essere, tra virgolette, quasi necessitati di andare a vedere i film di Natale, e questo ci sta. Poi comunque lui ha un brand importante e nessuno lo discute, ha una promozione dietro le spalle altrettanto, la colonna sonora che è un incit importante per far parlare o diffondere, però mi è sembrato opportunistico nella sostanza. Vabbè, perché lei non condivide, evidentemente non condivide la sua lettura, sì, sull'immigrazione. Vabbè, questo è una contrapposizione. Cioè lui ha voluto innanzitutto mettere alla berlina lo Stato italiano non pagando le tasse e andando in un mondo dove il sistema... Però, scusi, ha rappresentato l'italiano medio che cerca, sì, di fare il furbo, sì, e non pagare le tasse. Sì, è vero, che è vero, questo sì. Infatti, come tende a non pagare le tasse, non pagare i contributi ai dipendenti, a eludere. Esatto. Però in un certo senso, quando mette in evidenza lo status sociale africano, dove il cameriere se si taglia non fa la vertenza, la donna incinta non fa lavora fino all'ultimo giorno, che cosa vorrebbe fare? Che lui schifosamente vorrebbe averli per sfruttarli. Esatto, che in Italia vorrebbe avere. Vuole uno Stato in cui può usare manodopera a basso prezzo senza garanzie. Ma questo lo dice, è aperta, non è nascosta. Lui mostra l'italiano cialtrone, buono, sì, di cuore, poi alla fine gli piace il bambino, si adotta il bambino, si innamora della ragazza nera, non è razzista genetico, che non ci sono razzisti genetici in Italia se non alcuni casi patologici, però è un bello stronzo, capito, da questo punto di vista. Se lui pagasse più tasse magari sarebbe anche più spazio per tutti. Chiaro, Giancarlo? Pronto? L'ascolto. Buongiorno. Io ho visto il film con la mia famiglia il 1° gennaio, ma a me è piaciuto. Ovviamente non è, diciamo, le aspettative che si avevano del film di Zalone, di sganasciarsi dalle risate, ovviamente non è. Non è un film, il tema è tosto. Sì, sì. Spiazza un pochino, però nel complesso lo trovo fatto bene. Bel film. I figli quanti anni avevano? Posso chiedere quanti anni? Mia figlia solamente 24 anni. Ah, beh, quindi un figlio grande, già una persona adulta. Grande, sì. Ma eviterei anche, diciamo, come al solito, la tendenza un po' nostra di caricare questo tipo di spettacoli di ciò che non devono avere. Ma sì, non aveva una missione questo film. No. Però posso dire una cosa, mi si permette. Fotografa un momento, quando arrivano gli immigrati con Zalone, col barcone, salvati dalle ONG al porto italiano, e lui vede le sue ex mogli, la madre, le zie, fuori, si mostra un lato schifoso. A me mi sembrava impossibile che una cosa del genere l'avessi vista realmente pochi mesi fa. Gente che urlava ai porti, via, andatevene, tornatevene, gente che aveva affrontato il mare, aveva lasciato i morti sott'acqua e via dicendo. Questa cosa sarà ricordata quando lo vedranno i nostri nipoti, come noi guardiamo, che ne so, Mamma Roma, lì c'è l'africano intellettuale, guarda Mamma Roma sotto il suo tucul. Ecco, che parlava di un pezzo d'Italia in un momento particolare. C'è un momento stato in Italia in cui la gente era talmente sciagurata, cialtrona, infame, che andava a fare le ole ai porti per non far arrivare dei poveracci che avevano rischiato la vita e molti erano rimasti per strada. Chiara, buongiorno. Buongiorno. Spenga la radio. Oara. Scusi. Buongiorno. Ma Oara cos'è, allora, il nome? L'ha chiamato Oara, come Rossello Oara? No, è scritto diversamente. No, è scritto in maniera differente, però il suono è identico. Quindi il mio, però sì, Oara è il nome di battesimo. Ma perché aveva visto Via col vento sua madre? Come mai? No, sono curioso a questo punto. No, gli ho detto, allora, io tra l'altro poi Via col vento, che è un film meraviglioso, io per una sorta di crisi di rigetto non l'ho mai visto, proprio perché da quando sono nata che mi si ripete sempre. Miss Rossella, chiamano Miss Rossella quando è nata. No, è stata la protagonista di un romanzo di cui non mi ha mai confidato il nome. La protagonista si innamorò di questa e disse: un domani mi dovesse nascere una femmina, la chiamerò così, scritto totalmente diverso, H.O., quindi vabbè, però sono... È questo, insomma. Come è scritto? Ora? No, mi dica come è scritto, allora, il suo nome. Il mio è scritto tutto attaccato, H-O-A-R-A, mentre Rossella Oara, o apostrofo H-A-R-A, era un cognome. Oara, però sono identico. Vabbè. Questa poi è stata la spiegazione che mi è stata data, poi magari invece realmente... E chissà chi sarà questo Ora. Deriva da... Esatto. Quindi vabbè, con questo nome così strano sono andata anch'io, ho fatto parte di quella schiera del milione di persone che sono andate a vedere il film il 1° gennaio. Allora, a me il film è piaciuto. Io ho trovato da un lato geniale il fatto che abbiano voluto un po' accontentare entrambe le parti. Allora, quando è uscito il trailer è insorta tutta la sinistra, no? Film razzista. E tutti finalmente, uno che gliela dice a sti negracci, certo, è chiaro. Quindi, invece non era così. Esce finisce il film, via che andiamo a scontentare, se vogliamo, un attimo la parte di quella destra che si aspettava di andare a vedere un film irriverente sul tema del razzismo. Quindi in questo ho trovato geniale il fatto che sia, e anche se se no lo faceva bello figo, chiamavano bello figo, cioè facci un film, era quello che piaceva a tutti, ma non è così. Non è così. Allora, il fatto che tanti dicano ci aspettavamo di ridere di più, diciamo che su questo io sono stata ero preparata, nel senso che leggendo subito le critiche iniziali, immediatamente eravamo stati avvisati del fatto che sarebbe stato un film differente, non quella comicità cui Zalone ci ha sempre abituati. C'è, secondo me, nel film un particolare che ho colto, che poi un po' un messaggio, quando lui sulla nave gli viene passata la chiamata dicendo ecco attraccheremo a Vibo Valentia, lui dice no, allora piuttosto torno in Africa. Allora dietro c'è un messaggio, no? Che è un po' questo, ovvero la visione che ha l'Italia nel mondo, ovvero l'Italia è il paese del Bengodi, tutti vogliamo andare lì perché c'è lavoro per tutti, accoglienza, mentre poi in effetti detta da un italiano, cioè piuttosto che andare in Italia me ne torno in Africa. Sì, ma perché lui, è il paciuco, è come il paciuco, è il messicano di seconda che non viene riconosciuto da nessuno, nemmeno dai messicani stanziali, e si veste da burino, da grezzo, cercando di essere elegante. È un fenomeno legato all'immigrazione del Centro America. Lui è esattamente il paciuco italiano, è il pugliese che rinnega la sua pugliesità, si veste Armani, si mette le cremine, certo. Tutto, e dice Vibo Valentia, no, fa schifo, voglio andare a Portofino, voglio andare in un posto figo, ecco. Beh, no, lui diciamo che dice torno piuttosto in Africa, sì. Ovviamente, cioè, quindi diciamo, come per dire, nonostante quello che io abbia visto oggi in Africa e quello che so che mi può aspettare, diciamo, tornando in Italia, piuttosto torno in Africa. Però la cosa incredibile è che, come fa Zalone in tutti i suoi film, qui c'è proprio tutti i luoghi comuni, un insieme di luoghi comuni dell'italiano medio. Non a caso nel trailer che è stato fatto viene sottofondo, abbiamo la canzone d'italiano, no, di Cutugno, che ha tutti i luoghi comuni dell'italiano, un italiano, no? Vero, la certo, sì, la mano, lo spaghetti al dente, quindi c'è proprio questa voglia di mettere, quindi ecco, l'italiano che merito la vis comica di Checco Zalone, esatto. È proprio quella di portare a galla i difetti degli italiani, perché molti lo paragonano a Alberto Sordi in chiave diversa, perché lui fa dei nostri difetti materia di vis comica estrema, li incarna, li racconta e ci fa sorridere su quello, ridiamo su quanto siamo schifosi, ma è così, finché lo fa un altro siamo tutti contenti, purché non sia la mamma, la sorella e la fidanzata, sempre il solito discorso. Jonathan, buongiorno. Buongiorno, io sono andato ieri sera a vedere il film con mia figlia, il film l'ho trovato molto, forse troppo buonista rispetto al pungente che ho visto in altri film. Scusa, lei l'ha chiamato Jonathan per il Gabbiano, scusi, che è uno dei libri più buonisti della storia degli anni 70, 80, 90, scusi. C'ha questa terribile nemesi da dove scontare per tutta la vita. Esatto, devo dire, c'era anche un programma televisivo, Jonathan, è stato sfruttato come nome. E dicevo, ho visto un film molto buonista, la mia figlia che è piccola, comunque è 12 anni, è rimasta incantata dal discorso di cartoni animati, canzoni, quindi ha giocato molto anche sul pubblico più giovane. È un film per famiglia, giustamente. Esatto, sì. Infatti, ha giocato molto su questa cosa, infatti... Ma perché lei si sente cattivista, per questo le è sembrato buonista? No, perché di solito è molto più pungente, questa volta l'ho visto quando ho fatto altri film, pungeva un pochino di più, questa volta sì, ha giocato molto all'inizio sul malaffare italiano, parlando da cameriere con tutti i personaggi che incontrava e tutti giustamente cercavano in qualche maniera all'estero di ingannare l'Italia come si fa sempre. Devo dire, c'è un cameo di Barbara Boucher che ha fatto palpitare i miei occhiali per le diottrie che abbandonai sui suoi film, però non vado avanti perché dovrei fare uno spoiler. Ci fermiamo un istante. Melog. Faccio a sposare la causa di quest'uomo e a riconoscermi in lui. Come diamine faccio Zalone alla scrittura con Virzi, che probabilmente ha tracciato un soggetto e Zalone l'ha reinterpretato a modo suo, ma in che modo, mi chiedo? Questo incipit non è dei più confortanti. Poi, nell'intero corpo centrale della narrazione, non so, io come spettatore lucido che ragiona sulla costui Antonio Cianci, io sono affascinato dai critici cinematografici che entrano in un personaggio, come se uno balla al tip tap, si mette le scarpettine con la suola di ferro. Vuoi fare il critico cinematografico di dire arzigogoli super cazzoleschi, invece si può anche parlare più semplicemente di un film. Luca, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, io come tanti altri connazionali avevo grandissime aspettative per il film, quindi il primo di gennaio ho subito voluto andare a vedere l'ultima opera di Zalone, o meglio la sua prima come regista, e un po' anche per un aneddoto che mi ha visto, come dire, semiprotagonista quest'estate, ero in vacanza a Malta e ho scoperto in quei giorni che stava girando alcune scene del film, quindi avevo grandi aspettative e grandi desiderio di vederlo. In un primo momento a film appena concluso non mi ha convinto moltissimo, mi è sembrato che avesse cercato di mettere dentro un po' troppo e su un tema ovviamente difficile, quindi al tempo stesso non mi permetto di dare un giudizio perché trovo che il tema che ha voluto affrontare Zalone in questa circostanza sia davvero tanto attuale quanto delicato. Sì, ci sono tante cose, lei ha ragione, ha detto una cosa giusta, tante cose. Contemporaneamente dovremmo riflettere sulla nostra radice scellerata, sui limiti della nostra provincia arricchita, sul nostro gusto perverso che il marchio ha sopraffatto ogni raffinatezza. Poi contemporaneamente dovremmo riflettere sullo stato di sfruttamento dell'Africa, sugli italiani che vanno nei posti sfruttati a fare le vacanze, sulle guerre, sulle macerazioni, sugli immigrati, sulla nostra spietatezza motivata, come mi scrive un ascoltatore. Nicoletti, vai via in periferia oppure anche tu andresti a urlare ai porti radical di sinistra. Zalone era di destra, fatti i soldi, immediatamente diventa di sinistra ed è andato a vivere in una zona ZTL. E vabbè, allora te ne fattene una ragione. Capito Luca? Ci sono tante cose, questo è vero, è vero. Però ne stiamo qui a parlare, l'ha visto tanta gente. Il successo, a meno che non si parli dei libri di Susanna Tamaro, segna che qualcuno coglie realmente qualcosa che è nell'aria. Luca, buongiorno. Luca ha parlato, Luigi. Luigi. Salve, io ho visto il film, buongiorno. L'ascolto. Ho visto il film. Il film è diverso dal solito. Mi fa ridere che quelli della Lega, prima di vedere il film, lo vogliono fare senatore a vita. Beh, perché sì, perché sembra che finalmente avesse detto quello che tutti sapevano, capito? Sì, ma la videoclip, quando lui incomincia a cantare sulla falsa riga di Celentano, l'immigrato, non c'entra niente con il film. Sì, ma questo abbiamo detto. Sì, sì, è un'operazione molto astuta di marketing, preventivo. Alla fine, sui titoli di coda c'è qualcosa. Sì. Quindi la videoclip è veramente... è truffaldina. No, ma è fatta ma non è truffaldina, è un'operazione virale, è fatta benissimo, è fatta perché diventasse un caso prima ancora che si vedesse. È intelligente come operazione. Intelligente, ma non c'entra niente col film, assolutamente nulla. È un film che fa leggermente riflettere, non si ride, ma si sorride appena appena. Io sinceramente... non è il solito film di Zalone. Però guardi, c'è un aspetto didattico che non trascurerei. Veramente, il fatto che piace ai bambini, farlo vedere ai bambini e fargli capire cosa c'è dietro in quel viaggio, in maniera non cruenta, non violenta, però farglielo capire, ha un senso, secondo me. Tutte le favole hanno un senso. Le favole ti raccontano in maniera adatta ai bambini cose terribili, perché i bambini capiscano che il mondo non è fatto soltanto di principi e principesse. Ecco, questo film... narrato come una favola, racconta cose terribili. È il primo approccio per cui i bambini capiscano che esiste anche questo lato del mondo. In questo, secondo me, è veramente un film che, ripeto, andrebbe fatto vedere nelle scuole. Luigi, buongiorno. Luigi ha parlato, Marco. Salve, buondì. Ascolto. Allora, mi è piaciuto moltissimo per due motivi. Uno, credo che sia il film di Zalone con la comicità più raffinata e più intelligente. Gli altri, è vero, non è da spanciarsi, da sbellicarsi dalle risate, ma il film è molto ben raccontato, la comicità secondo me è anche molto ben girato, diciamo la verità, girato da Dio, è bellissimo. L'impronta di Verdi secondo me non è solo nella sceneggiatura, sì, perché qualche immagine secondo me ha dato una mano anche sul punto di vista della scenografia. Ha ragione, in questo ha ragione, è vero. Secondo me, no, ha ragione, qualche consiglio. Di una realità incredibile il cameo di Nick Vendola, perché proprio non lo diciamo, bellissimo. Allora, che rappresenta anche quella che è l'italianità, nel senso che gli stranieri concreti sono arrivati in due minuti, hanno pagato via l'italiano, e comunque questo è un dato che c'è un personaggio che devo dirlo senza fare spoiler, c'è un giornalista di questi giornalisti fighetti che vanno in giro con la telecamera e raccontano la sofferenza di questi popoli che non dimenticano la loro dignità, un infame però super sponsorizzato, francese naturalmente. Come vengono rapiti, il francese chiama Macron, dopo tre minuti arriva la valigia coi soldi, Zalone chiama Nicky Vendola, che non gliene frega un cazzo di lui. E questa secondo me è l'idea dell'Italia. In altro, poi io peraltro ho avuto anche il piacere, perché a me è piaciuto molto, di vivere in Libia prima e dopo la rivoluzione, e queste cose le ho viste con i miei occhi. Dove esattamente? In che paese? A Tripoli, esattamente dove ha girato lui, sotto lì, quindi in quella proprio lì. E queste cose dei migranti io le ho viste con i miei occhi, ho visto video in cui, come diceva lui, la carovana parte, se tu sei giù rimani lì, il bambino sta male, lo lanciano dalla carovana. Insomma, queste sono cose che purtroppo sono veramente accadute e accadono tutti i giorni. Infatti è molto ben documentato il film. Quelle che sembrano delle gag, non è facile, quelle che sembrano delle, scusi, quello che sembrano delle gag vengono da una reale documentazione. C'è tutto quello che è lì, e tutte cose che ci sono esistono, non è che sono esagerazioni. Secondo me lui ha studiato molto molto bene il tema, con grande attenzione, e ribadisco, quello che può sembrare per alcuni esagerazioni, anzi lui l'ha trattato in modo molto delicato, perché era molto più facile scemare sul tragico, sul fare qualcosa di melanconico, fare in qualche modo piangere di più di quello che ha fatto. Quindi riuscito a tenere sempre un tono, secondo me, positivo di tutto, raccontando in maniera molto dettagliata e studiando molto bene il tema dell'immigrazione. E guardi, questo non è un discorso partitico. L'aspetto tragico melanconico è stato, secondo me, esaurito e in qualche maniera inflazionato da quegli spot che giudico, dal mio punto di vista, veramente osceni, di associazioni con intenti sicuramente ottimi, che fanno vedere quei bambini con le mosche in faccia, vermi in faccia. Concordo. È una cosa che trovo, è giocare oscenamente con quelli che sono i sentimenti e l'orrore della povertà, della malattia, della difficoltà. Quindi quell'immaginario è stato inflazionato dai caroselli per aiutateci a salvarli, e quindi concordo, evidentemente che non si può toccare più. Purtroppo è brutto dirlo, ma servono per far cassa. Assolutamente, in pieno. Io volevo chiudere soltanto con una cosa, volevo dire. È stato detto anche prima che all'inizio, forse un intellettuale, va a vedere ospite, che gli altri. No, io credo che Zalone abbia questa capacità di essere trasversale, cioè di poter far divertire la persona con un grado di cultura leggermente superiore e poter fare divertire il bambino. Perché io mi stavo chiedendo ieri, guardando il film con mia figlia che ha 17 anni, dei bambini di 7-8 anni che ridevano vicino a noi, quanti hanno capito veramente le battute e in quanti hanno capito veramente quello che stava succedendo. Perché c'erano delle battute molto fini, se uno, questo è un film che di Zalone, cosa che non mi è mai successa, che andrebbe riguardato, per esempio qualche battuta che ti scappa, in realtà era molto fine. Ma mi viene in mente mi viene in mente a me alcune cose di questo film che lì per lì non ho colto, che mi tornano alla memoria adesso mentre parlo con lei, dico, è vero, sì, c'è una scrittura sublime e raffinata, andrebbe rivisto una seconda volta, è vero, questo è vero. In più, guardi, le dico anche questo, a parte la correzione della tiro che era meravigliosa da parte del collega immigrato, purtroppo succede che, siccome vita tua, vita mia, morte tua, là succede spesso che l'umanità anche degli amici deve fare spazio a questo desiderio di sopravvivenza, per cui io ho visto mandare al macello anche vicini di casa, amici e anche parenti stretti. Sì, sì, questo è realistico, è puro realismo. Anzi, è stato anche poco realista, tra l'altro quello era anche appassionato del neorealismo italiano, per cui si è comportato in maniera... Sì, devo dire che è una bella idea, come... l'africano che, che guarda nel suo villaggio, mamma Roma, è stupendo. Geniale. Allora, Mariano. Sì, pronto. L'ascolto. Buongiorno. Dunque, io faccio una premessa, intanto mi sento una persona, diciamo, di sinistra, no? Mm. Come si intendeva una volta. E devo ammettere che non conosco benissimo Zalone, non sono mai, l'avrò visto una volta. Come quelli che dicono, a casa mia non c'è la televisione, che io li legherei davanti a un televisore acceso, gli farei vedere Tec Tec Tec per 6 anni, prego. E quindi non sono mai riuscito a farmi un'idea di questo attore o regista. Mm. Ho visto dei trailer di questo film, Tolo Tolo, E la riflessione che faccio, per la quale telefono, è che a mio giudizio, io non sono convinto che tutti coloro i quali siano andati a vedere questo film abbiano capito che... Ma lei il film l'ha visto? Il film non l'ho visto. Ha visto il trailer. E allora, scusi, inutile, non parliamo banca, andiamo avanti, è inutile. Non può aver capito nulla. Valerio, andiamo avanti. Valerio. Sì, buongiorno. Bellissimo, quello di sinistra, come quelli che non hanno la televisione a casa. Giudica il film sul trailer fascio, dicendo non l'hanno capito. Vatti a vedere il film, no? Valerio, ecco. Sì, ciao, buongiorno. Allora, io il film l'ho visto... ci ho portato mio figlio, 16 anni, e allora la prima considerazione è quella che comunque è un film coraggioso, perché comunque sia affrontare questo tema molto attuale in chiave ironica è molto difficile e molto... Guardi, molto non era coraggioso. Scontato che andasse bene il film, eh? C'è stato un po' di azzardo, voglio dire tutto calcolato. Assolutamente. Non è scontato, la gente potrà prenderlo anche diversamente, deluso, cioè come non fa ridere non ci va. Invece ha funzionato e funzionerà ancora di più, vedrà che ci andranno ancora più persone. Sì. E la cosa è questa, che molti intellettuali, molti politici hanno trattato questo tema. E magari non arrivano al popolino, mi passi questo termine. Invece lui magari con un linguaggio molto più semplice, molto più scanzonato, molto più mediocre, magari forse farà riflettere. Le posso dire una cosa, Maria, Valerio, solo questo. Raro che un film che esce 24 ore fa mi dia modo di parlarne per un'ora con ascoltatori informati che l'hanno visto. E questo ha un senso. Alla prossima.